La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Tema del giorno le riforme, tra queste quella della legge elettorale. Stamani vertice di 2 ore a Palazzo Chigi. La maggioranza che appoggia l'attuale esecutivo avrebbe deciso per accelerare i tempi. Si punterebbe quantomeno alla modifica dell'attuale porcellum entro l'estate per evitare che in caso di crisi si torni al voto con l'attuale sistema. È la volta buona secondo voi? Riusciranno insomma le forze parlamentari a cambiare la legge elettorale? 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Nello specifico, entro il 31 luglio l'esecutivo punta ad approvare in prima lettura tra Camera e Senato sia il disegno di legge costituzionale che fissa il percorso degli interventi istituzionali che il provvedimento che conterrà quella che viene definita la modifica minima della legge elettorale. Ma sentiamo allora il ministro per le riforme Gaetano Quagliariello. La prima fase verrà fatta all'interno di un comitato dei 40, alla costituente il comitato era dei 75, si chiama comitato dei 40, una selezione diciamo, dei membri della prima di Camera e Senato, dopodiché l'approvazione finale verrà fatta dalle assemblee congiunte, ma si dovrà raggiungere la maggioranza sia dei componenti della Camera sia dei componenti del Senato e ovviamente bisognerà avere una maggioranza qualificata. In ogni caso è previsto uno o più referendum sulla materia. Così il ministro per le riforme Quagliariello, e un nostro ascoltatore è stato velocissimo, ha già mandato un sms, non ce la faranno mai perché non hanno voglia di fare niente, sono solo dei grandi mantenuti, scrive questo ascoltatore anonimo rispetto alla domanda che abbiamo posto al 349-238-6666 se è la volta buona per una modifica della legge elettorale. E questa legge avrebbe spiegato il presidente del Consiglio Enrico Letta nella riunione di maggioranza, va subito messa in sicurezza per evitare che si possa andare a votare con l'attuale sistema. Dunque la preoccupazione un po' di tutti i partiti è di modificare l'attuale sistema, perché sappiamo il governo di larghe intese dovrebbe durare il tempo delle riforme costituzionali, forse 18 mesi, ma ogni momento, ogni settimana può essere buona per una crisi improvvisa, vista la strana maggioranza, come la chiama qualcuno. Restano tanti intanto i dettagli da chiarire proprio su come sarà modificata la legge elettorale, la soglia oltre la quale scatta il premio di maggioranza, per esempio il ritorno delle preferenze, in che proporzioni, tutti elementi che dividono Popolo della Libertà e Partito Democratico. Il primo, con Brunetta, parla di modifiche minime al porcellum. Il secondo, il PD con il ministro Franceschini, dice che gli interventi saranno più radicali. Franceschini, nella dichiarazione che andiamo ad ascoltare, parte dalle negatività dell'attuale sistema. Sentiamo. Ha degli effetti distorti, un premio di maggioranza che distorce il risultato, c'è la sentenza della Corte Costituzionale che arriverà nei prossimi mesi. Mi pare importante che si sia raggiunto un'intesa sul fatto che comunque quando si tornerà a votare non si tornerà a votare con questa legge elettorale. Parte il percorso delle riforme costituzionali, che è molto ambizioso, che richiede dei tempi non brevi. Sciaguratamente si interrompesse, comunque non si voterà con questa legge elettorale. Io trovo importante che si sia raggiunta questa intesa, non si tornerà a votare col porcellum. Poi, dopo che le Camere avranno, se le Camere decideranno mercoledì prossimo, confermato questa decisione, ci si metterà a discutere. Naturalmente c'è chi pensa che servono modifiche molto ampie, un ritorno alla legge elettorale precedente, chi pensa che basta solo qualche piccolo correttivo. Non si tornerà a votare con il porcellum, parola del ministro Franceschini, ma qual è la posizione delle opposizioni? Opposizioni che possiamo identificare in questo momento soprattutto con il Movimento 5 Stelle. Sentiamo allora il capogruppo al Senato del 5 Stelle, Vito Crimi. Ci stiamo già studiando e abbiamo già dato i nostri punti fermi che sono limite dei due mandati, il ripristino della preferenza, l'incandidabilità in più di una circoscrizione e altri, adesso c'è tutto un elenco di punti che avevamo detto, ecco, non condannati, quindi l'incandidabilità di chi ha avuto una condanna. Sul proporzionale maggioritario ci stiamo ragionando e non escludiamo, questo lo anticipiamo, questa è un'anticipazione, non escludiamo che sia una materia che debba essere messa in discussione in rete con i nostri cittadini. Abbiamo il nostro portale con i nostri attivisti e su temi per i quali non abbiamo nel programma, non avevamo preso una determinata posizione in partenza, riteniamo che debba essere sempre data la parola a chi ci ha votato, o in questo caso con gli strumenti che abbiamo, purtroppo, perché se ci fossero anche degli strumenti di consultazione più rapidi, veloci, elettronici, per poter consultare tutti i cittadini sarebbe anche meglio. Se noi in tempi rapidi potessimo, e qui mi riallaccio sempre allo strumento Quorum Zero, potessimo consultare i cittadini per chiedergli volete il proporzionale o il maggioritario, non ci sarebbero dubbi e non ci sarebbero maggioranze, opposizioni. I cittadini, quella è la maggioranza del Paese, i cittadini. E così Crimi del Movimento 5 Stelle su una possibile modifica della legge elettorale. Dai vostri sms si deduce che la fiducia vostra è veramente poca, perché le forze politiche cambino la legge elettorale, sono dei cialtroni, scrive qualcuno, si fanno le leggi a loro favore, li manderemo tutti a casa democraticamente, non ci crede quasi più nessuno che la legge elettorale venga cambiata. Chiudiamo il capitolo della legge elettorale per venire ai lavori, nello specifico delle commissioni parlamentari. C'è stato un via libera della Commissione Finanze della Camera ad una risoluzione su Equitalia, tema questo che interessa molto ai nostri ascoltatori. Vediamo e sentiamo di cosa si tratta dalle parole del Presidente della Commissione Finanze, Daniele Capezzone. Davvero oggi c'è da essere orgogliosi, e lo dico non solo da primo firmatario di una risoluzione, ma da presidente di una commissione, la Commissione Finanze, che ha firmato questo documento all'unanimità e lo ha votato all'unanimità. Tutti i gruppi, da destra a sinistra, PDL, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Scelta Civica, Lega, Fratelli d'Italia, SEL, Centro Democratico. Per dire cosa? Certo, le tasse vanno pagate, certo il sistema di riscossione deve essere efficiente, ma bisogna tagliare le unghie al sistema Equitalia. Occorre una riforma drastica per fare cosa? Numero uno, aumentare le rate a favore del debitore. Numero due, tendenziale non espropriabilità e non ipotecabilità della prima casa, se è l'unico bene del debitore, naturalmente avendo riguardo alle soglie adeguate, alle caratteristiche della persona. Poi ancora, sui beni dell'impresa, pignorabilità non oltre un quinto del valore di questi beni, quindi non ti possono bloccare l'attività di impresa. Ancora, possibilità per un debitore in difficoltà di sospendere per 6 mesi le rate, quindi avere ossigeno. Ancora, possibilità di non decadere dalla rateizzazione se non paghi un certo numero di rate, oggi sono soltanto 2. Ancora, revisione del sistema assurdo del solve et repete, quello per cui tu devi prima pagare un terzo e poi fare causa. Ora questo lo eliminiamo, o chiediamo meglio di eliminarlo, se non per le situazioni chiaramente fraudolente. Riduzione degli interessi, e non ci può essere più il meccanismo degli interessi sugli interessi, il cosiddetto anatocismo. Ancora, via il sistema dell'aggio che tante anomalie ha creato. Ecco, noi confidiamo che il governo raccolga questo, il vice ministro Casero è venuto ad esprimere apprezzamento per questa linea, davvero noi siamo impegnati in modo forte su questo, oggi abbiamo scritto una pagina bella, ora dobbiamo proseguire per creare un rapporto civile tra fisco e contribuenti. Un conto è pagare le tasse, altro conto è mettere in ginocchio le famiglie e le imprese, questo noi non lo accettiamo. E così dunque Capezzone sulle possibili modifiche al sistema di Equitalia. Una notizia di pochi minuti fa: il Senato ha accolto le dimissioni di Ignazio Marino, che da questo momento non è più senatore del PD. E Marino, quindi, lo ricordiamo, è candidato al sindaco di Roma. E quindi per la puntata della Politica alla Prova è tutto. Mi fermo qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.